trase pe sot, e fatto senti. Viendo, viendo, viendo già resto pa c'angazzò. Viento trasin de piazza, rumpe finestra e non da farma. Viento, viento, portami voce e chi vuol lucca.